Dimmi dove eri ieri e prima. Sei arrivata con il volo di una piuma, così leggera e appariscente come nessuna. Mi sei apparsa come vita sulla luna. Le mie cattive abitudini adesso dovrei cambiare, perché dormi nel mio letto. Dimmi se solo di donna un dispetto, o è per vedere se ho paura o se accetto. Ma tu lo sai, vivo a testa in su, guardando il cielo blu. Da dove arrivi tu, come brilli, sai, da che stella cadrai, chissà di che galassia sei. La mira bambina dallo spazio. No, non ci credere a quel che ti han detto, che noi umani non amiamo affatto. Tu non hai idea l'amore che metto. Tu non hai idea per te il mio rispetto. Ma come brilli, sai, da che stella cadrai, chissà di che galassia sei. Ma mi racconterai dopo il tuo viaggio, bambina dallo spazio. Strada accesa ma di confusione, ne ho già vista tanta per fortuna. Non basta questo a fare